Fare male in un animale, nemmeno un uccellino.

adesso vi presento Focaloca. Sacca B. Sempre lento, violento, me. Okay.

spettacolo, fratello. Perché mica. Ritira, ritira, ritira, rimolla, rimolla, ritira. Ad adesso, comunque.

programma col cuore di un bambino è il cammino di Gigi D'Agostino. Già poco resterà piccino. Il cammino di Gigi D'Agostino. Signore e signori, mettete la sede. Vi presento Angel di Gigi D'Agostino. Sono un abbaglio, non c'è canzone senza uno sbaglio.